senza sapere il motivo, io mi stavo ammazzando. Così passavano i giorni senza avere riposo, l'anima mia battuta si sfiniva in un pianto, fabbricando un sorriso senza senso in me. Però una sera appariva ai miei occhi la gran risposta che ha cambiato il mio destino. Dal santo libro Gesù Cristo mi diceva: sogno la vita, il cammino, la verità. E da quel giorno per sua vita io rinato, ho il riposo e nel mio cuore c'è allegria. La pace sua e il suo amor mi han fascinato, sono felice, io salvo sono. Oggi conosco il motivo che mi stava ammazzando. Nella mia vita mancava la presenza di Dio. Però una sera appariva ai miei occhi la gran risposta che ha cambiato il mio destino. Dal santo libro Gesù Cristo mi diceva: sogno la vita, il cammino, la verità. E da quel giorno per sua vita io rinato, ho il riposo e nel mio cuore c'è allegria. La pace sua e il suo amor mi han fascinato, sono felice, io salvo sono. Ti amo.